24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il processo ad Anders Breivik, che ha catalizzato ieri l'attenzione di tutto il continente. Fari ancora puntati sull'economia dopo le dichiarazioni elettorali di Nicolas Sarkozy sulla BCE, mentre vi proporremo un'intervista esclusiva di 24 ore in Europa al vicepresidente della Commissione Antonio Tajani sul tema del lavoro. Infine vi parleremo di un piccolo mistero nella città austriaca di Innsbruck. Non colpevole, Anders Behring Breivik ha riconosciuto di essere stato l'autore dei massacri di Oslo e Utøya, ma si è dichiarato non colpevole dal punto di vista penale. Il processo dell'anno si è aperto ieri in Norvegia, catalizzando l'attenzione del paese e dell'opinione pubblica europea. Apertura drammatica che ha comportato la descrizione dettagliata dei fatti di quel terribile pomeriggio del 22 luglio. Breivik giunse a Utøya dopo aver seminato panico e morte nel centro di Oslo, con 8 vittime e 209 feriti. Sull'isola proseguì la strage, sparando sui giovani partecipanti al campo estivo del Partito Laburista, uccidendo 69 persone. In tribunale Breivik ha continuato la sua crudele recita, liberato dalle manette, ha salutato le famiglie delle vittime con un gesto simbolo dell'estrema destra, poi ha disconosciuto l'autorità della corte e del giudice. Gli esiti del processo potrebbero essere due: o l'affidamento di Breivik ai servizi psichiatrici, oppure una condanna a 21 anni, nel caso fosse ritenuto capace di intendere e di volere. Ora l'economia. Messa in guardia della Germania sulla Banca Centrale Europea dopo che il presidente francese uscente Nicolas Sarkozy ha affermato di voler riaprire il dibattito su maggiore attivismo della politica monetaria a sostegno della crescita. La profonda convinzione del governo tedesco è che la BCE esercita il suo mandato in maniera totalmente indipendente, e questo a Parigi lo sanno, il messaggio arrivato da Berlino. Il governo spagnolo e il suo programma di riforme si sono meritati il sostegno delle istituzioni europee e internazionali, ad affermarlo ieri il premier iberico Mariano Rajoy. E siamo al lavoro. È importante che venga presa una decisione. L'Unione Europea vuole che l'Italia faccia in fretta e bene le riforme. A sottolinearlo il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, spiegando come quelle messe in campo dal governo Monti siano riforme coraggiose, a volte anche difficili, ma indispensabili per la crescita dell'Italia e dell'Europa. No, la fiducia delle istituzioni comunitarie nei confronti di Monti è forte, è partito con il piede giusto. Sta lavorando, è importante che si vada avanti con le riforme, si vada avanti con una forte politica per la crescita, si vada avanti con la soluzione dei problemi di accesso al credito per le piccole e medie imprese, si approvi il prima possibile la direttiva sul ritardo dei pagamenti, ma io sono convinto che il governo farà il suo dovere e continuerà a seguire la strada imboccata all'inizio con la riforma del sistema delle pensioni, e quindi ritengo, con un consenso parlamentare così ampio, che possa avviare buone riforme indispensabili per la crescita e la competitività dell'Italia e dell'Europa. Nello specifico della riforma del lavoro, l'ultima versione soddisfa ancora le istituzioni europee? Ma noi valutiamo i testi definitivi che vengono approvati dal Parlamento, perché altrimenti dovremmo valutare tutte le posizioni durante l'iter legislativo. Questo è veramente difficile, ecco perché è importante aspettare il voto del Parlamento per poter esprimere un giudizio su una riforma così importante che anche la Spagna, di fronte alla crisi, ha deciso di realizzare, quindi un problema generale. Certo, bisogna fare una buona riforma, coraggiosa, a volte anche difficile da realizzarsi, però le riforme sono indispensabili se si vuole vincere questa sfida contro la crisi e se si vuole puntare veramente sulla crescita. Insomma, bisogna mettere il Paese nelle condizioni di essere protagonista della competitività dell'intera Unione Europea. Gli obiettivi della riforma del mercato del lavoro italiana sono molto importanti, a sottolinearlo il commissario europeo all'occupazione, Laszlo Andor. Sentiamo su questo anche l'europarlamentare Roberta Angelilli. L'Europa sta mettendo a punto un piano molto interessante per reagire con forza al problema della disoccupazione giovanile, che è una piaga sicuramente in Italia in Grecia, in Spagna, ma in realtà in quasi tutti gli stati membri, perché le statistiche dicono che il 20% dei giovani in Europa è disoccupato. Però bisogna fare presto, ci sono 82 miliardi di euro a disposizione di fondi comunitari per la occupazione giovanile, per creare nuove opportunità sia di lavoro e anche nuove opportunità di formazione. In Italia c'è una situazione particolarmente critica, infatti l'Italia fa parte del gruppo degli 8 Stati membri sotto osservazione. Un mese fa la Commissione europea ha mandato proprio un team di supporto al governo italiano per stabilire un programma rapido per reagire al problema. In realtà la disoccupazione giovanile in Italia è un fattore critico che il nostro paese si trascina da troppo tempo, in particolare nel sud, in particolare per quanto riguarda le ragazze sotto i 25 anni. Uno, due consigli che arrivano dall'Europa all'Italia. Utilizzare presto e bene i fondi comunitari a disposizione. L'Italia ha 8 miliardi di euro, bisogna rivedere al più presto tutto il sistema, diciamo, della contrattualistica, quindi incentivare tirocini e anche tutte le altre forme di avviamento al lavoro, anche microimprese o piccole imprese giovanili, quindi accesso al credito e formazione di qualità, oltre ovviamente all'apprendistato, cioè i giovani devono lavorare e lavorare subito. E a fotografare un'Europa a due velocità sono intanto i dati sulle entrate fiscali nel vecchio continente. Per le entrate tributarie l'Europa è divisa in due e l'Italia è nel mezzo. E quanto emerge dai dati sulle entrate tributarie europee stilati dal Dipartimento delle Finanze? Roma, nel bimestre, ha segnato un incremento del 4%, inferiore al 5,4% di Germania e al 10,2% della Francia, ma superiore al meno 8,4% della Spagna e al meno 4,3% del Portogallo. I dati comparati diffusi dal Dipartimento delle Finanze fotografano anche l'andamento del solo gettito dell'IVA, un'imposta importante perché da sempre è termometro dell'andamento dei consumi e quindi dell'economia. Anche in questo caso i paesi europei sono divisi in due e l'Italia, con un più 1%, appare a metà del guado. A mostrare maggiori difficoltà, non sorprende, è la Spagna, meno 9,8% le entrate IVA, seguita dal Portogallo, che segna un meno 1,1%. E l'Italia, con il suo più 1%, è preceduta da Irlanda, Regno Unito, ma soprattutto dalla Germania e dalla Francia, che si confermano paesi a ben altra velocità, più 3,4% per Berlino, più 7,7% per Parigi. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I mercati, sedute in altalena per le borse europee, che dopo un rimbalzo consistente nel primo pomeriggio, Milano era arrivata a guadagnare oltre il 2%, hanno chiuso con moderati rialzi. Parigi ha recuperato lo 0,8%, Francoforte lo 0,9%, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso a più 0,36%. Seduta in altalena per le borse europee che ieri, dopo un rimbalzo consistente nel primo pomeriggio, con Milano arrivata a guadagnare a oltre il 2%, hanno chiuso con moderati rialzi. Pesano dunque le preoccupazioni sulle banche del vecchio continente, così come l'avvio prudente di Wall Street. Parigi ha recuperato lo 0,5%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,2%, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB si è afflosciato nel finale, chiudendo a più 0,36%. Tra le blue chip spicca Buzzi, più 4,6%, che scatta dopo aver perso il 21% nell'ultimo mese. Ben comprate anche Pirelli, Fiat e Tots, tutte con rialzi superiori al 2%, e Telecom Italia, più 2,2%, che beneficia delle nuove voci sullo scorporo della rete. Pagano dazio invece le banche, a partire dal Banco Popolare, meno 5,5%. Dia Sorin, meno 5,2%, prende fiato dopo il rally dell'ultimo mese, più 15%, mentre A2A, meno 4,5%, paga le preoccupazioni del mercato su un eventuale sborso per l'OPA Edison. Mediaset, meno 2,9%, sconta le preoccupazioni per un ulteriore calo del mercato pubblicitario. Sul resto del listino, Bonifiche Ferraresi, più 51%, festeggia l'asta indetta dal socio di maggioranza Banca Italia, e De Longhi, più 11%, la cessione del marchio Brown a Procter & Gamble. Ceo Condina, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dare l'accesso all'energia sostenibile a 500 milioni di persone entro il 2030. Questo è il nuovo obiettivo annunciato a Bruxelles dal presidente della Commissione, Josep Barroso, in occasione della conferenza targata Europa e ONU dedicata alla campagna Energia sostenibile per tutti. Barroso ha spiegato che lavoreremo per rendere questo target una realtà. Prioritarie saranno fonti verdi ed efficienza energetica. E ora una curiosità. Stanno riapparendo, misteriosamente come erano scomparse, alcune delle 7 tegole d'oro rubate da ladri acrobati al Goldenes Dachl, uno storico edificio di Innsbruck in Austria. 5 delle preziose tegole d'oro zecchino sono state abbandonate a Innsbruck e a Schwaz, una località a pochi chilometri dal capoluogo della regione del Tirolo. Le 7 tegole erano state asportate pochi giorni fa dai gnoti. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.